Ecco, ciao Paola. Ciao. Allora, abbiamo Paola qui e ci vuoi raccontare qualcosa di te? E poi ti chiediamo due cose. Ok, ecco, tipo cosa ciao, ci Paola. Faccio qui? Allora, abbiamo Paola. Sì, per esempio. So che fai tantissime cose, quindi... Sì, beh, sì. Beh, a Ormea principalmente... Sì, d'estate vengo perché ci sto bene e poi perché lavoro in una cooperativa agricola di comunità che fa soprattutto manutenzione di sentieri e poi però anche coltiva la vite, le erbe aromatiche, ha dei progetti di biodiversità, insomma per la conservazione delle specie vegetali, lo studio di quegli animali. Bellissimo lavoro. Siete un bel gruppo? Siamo un gruppo, adesso siamo in sei. Uh-huh. Alle volte le altre persone sono qui di Ormea oppure come te che vengono saltuariamente? No, la maggioranza abita qui. Abita qui. Arriva da lontano, però che sono tre che arrivano dall'Africa. Ok. Poi un torinese. Comunque insomma stanno qui. Ok, oramai sono di qui. E con questa attività della cooperativa, cioè riuscite a sostenervi? Fate anche del commercio, diciamo, oppure è più una passione? No, era no, questo la cooperativa per capire. È proprio un'impresa, okay. Quindi sì, sta su come le imprese normali. Sì, sì. Io faccio anche un altro lavoro, però gli altri non fanno solo quello. Non è che sguazzi, non è scherza, però ce la fanno. Sì, per ora ce la fanno. Non vendiamo ancora perché le piante non sono ancora produttive, ci va un po'. Okay. Quando siete partiti? Quanto tempo fa? Ma la cooperativa in realtà c'è da 5 anni, però con le coltivazioni siamo partiti solo da due anni. Per esempio la vite ci mette almeno 3 anni per essere produttiva. E poi comunque i primi tempi ancora, ci vuole tempi. Pazienza. Sì, sì, sì, quindi ecco, per ora non facciamo commercio, okay. Ma arriverà il momento. E la tua visione di Ormea da adesso in poi, no? In prospettiva, da qui a 5, 10, 20 anni? Ma se tutto andasse come dovrebbe, credo che le cose, cioè c'è tanta potenzialità per vivere bene qui, perché comunque insomma c'è questa dimensione. Adesso per esempio sto facendo un corso a Milano, vedo la rabbia con cui la gente vive, no? Quotidiano, sì. Il nervoso, lo stress, cioè tutte cose che per me già sono distanti, a parte momenti di stanchezza così estrema, ma nel quotidiano tutti i giorni svegliarsi così, qui non è così vivere, quindi questo diciamo è un elemento fondamentale. Importante. Certo, il lavoro è difficile, noi ce lo siamo inventato. Insomma, abbiamo lavorato di tantissimo per arrivare a quel punto. Certo. E quindi anche lì non è per forza detto che tutti abbiamo voglia di farlo, anche giustamente. Cioè, pensate anche eventualmente di ampliarlo questo gruppo o diciamo sì, la vostra visione? Prima eravamo di più. Ah. Però il lavoro poi è concentrato, sì, cioè concentravamo il lavoro in meno mesi, poi però c'era il problema cosa fare chi non ha, io per esempio un altro lavoro, quindi a me andava bene così, però diciamo giù, che, vero, sulla costa, sai. Sì, però insomma per i lavoratori no, c'era la necessità di fare più ore e di venire di più, organizzare il lavoro di modo che sia diluito quasi tutto l'anno. Vabbè, ovviamente qua è l'inverno, non è che si può fare i lavori agricoli, No. Però più ore, insomma più mesi possibili, ecco. Però certo, se sarebbe bello, anche perché poi quando arriva qualcuno da fuori ti aiuta sempre tanto, no? Che poi uno tende a chiudersi un po'. Allora per esempio abbiamo avuto delle ragazze stage dall'università, cioè stage, no, ha fatto un'esperienza. Proprio hanno lavorato. E poi però si sono, per esempio per delle piantagioni c'era la necessità di avere un numero maggiore di perché dovevamo piantare entro una certa data. E poi però sono tornate, hanno trovato il modo per tornare perché sono state bene. E comunque la loro presenza, sì, ci ha fatto bene. Ha fatto bene perché sia per correggere gli errori, ma anche per vedere che in fondo di cose carine ne faccio anche ricevere un po' di complimenti. Da un po' di energia, no? Porta un po' di energia dall'esterno, perché la troviamo dentro l'energia per fare queste esperienze, queste attività, però anche se un po' di conferma fa piacere. Dica, voglio tornare in tutti i modi anche in stage, fa piacere. Bello, bello. Di solito uno dice gli stage ti fregano, no? Sì, è vero, è vero. Ci sono stage che poi si vogliono dimenticare. Esatto. E tu hai fatto esperienza anche all'estero, vero? Sì, sì. Con diversi anni in Africa. Adesso sei un po' più stabile. Sì. Bene. Sì, sì. Va bene, per il momento grazie. No, grazie a te. E domani pomeriggio abbiamo il gioco, non so se hanno. Insomma, noi ti chiediamo di avvicinarti anche per un breve momento e eventualmente di coinvolgere altre persone per domani pomeriggio dalle 4 in poi, sempre qui al piano terra del municipio. Grazie tantissimo. Grazie. Grazie. E buon riposo. Ciao, a dopo, ci rivediamo. Ciao, grazie.